consulta cittadina per la salute mentale di Roma. Chi arriva a un diagnosi e cura? Si può conoscere la percentuale fra chi arriva volontario e chi per TSO? C'è un aumento dei ricoveri? Allora, noi come consulta cittadina le possiamo dare dei dati relativi ai TSO che sono provvedimenti che riportano la firma del sindaco e quindi sono dati che l'assessorato alle politiche sociali e il Comune di Roma registrano. L'ultimo dato che abbiamo sono a fine ottobre, perché sono dati riepiloghi mensili, e portano per il 2012 808 provvedimenti di TSO emessi da gennaio, quindi fino a fine ottobre. Il dato riporta un incremento perché alla stessa data lo scorso anno 2011 i provvedimenti erano 684, quindi c'è stato un forte incremento che noi addebitiamo principalmente all'impoverimento ulteriore dei servizi territoriali. È vero che la polizia spesso conduce nei diagnosi e cura chi non parla la lingua italiana e vaga per la strada? Questo è un dato che con più certezza le potrebbero dare i diversi servizi psichiatrici di diagnosi e cura. È logico che una persona che non parla la lingua, che magari può essere ottenebrata o preda di problemi di alcol o di sostanze, è più facile equipararla a un problema mentale, senza una diagnosi accurata che poi viene fatta negli SPDC. Le risulta che meno risorse ai servizi determinano carenza di personale, quindi maggiori trattamenti farmacologici? Questo è un problema che noi cerchiamo di far comprendere all'istituzione regionale da parecchi anni. Lei consideri che il blocco del turnover è iniziato nel lontano 2000, per cui ormai sono 12 anni che alle dismissioni, utilizziamo questo termine, comunque ai pensionamenti del personale sul territorio, ai trasferimenti, alle richieste di trasferimento, non viene poi data una sostituzione nel numero adeguato. Quindi noi siamo arrivati a una carenza che supera il 50% dei medici che, secondo il progetto obiettivo nazionale recepito anche dalla Regione Lazio, dovevano essere presenti nei servizi territoriali e negli SPDC. Recentemente, poi specialmente nei periodi estivi, quando si acuisce questa carenza per ferie che vengono rese obbligatorie al personale, noi abbiamo, tante volte assistiamo come consulta a un balletto da dove prendo i medici per tenere aperto l'SPDC, come sposto il personale, abbiamo un aumento di turni, prolungamento di orario nei turni, perché altrimenti sarebbero costretti a chiudere o a ridurre, come spesso succede, il numero dei posti letto in SPDC. Lei sa dove viene praticato l'elettroshock? No, perché è una pratica che noi contestiamo. Avevamo parecchi anni fa l'idea che in alcune case di cura si procedesse a questa strumentale e abietta metodo di cura. Siamo contrari perché comunque è una forma ulteriore di violenza che si fa al paziente e è una forma poi che noi riteniamo come la contenzione meccanica negli SPDC. Il fatto che si scelga la strada più corta anche se non è la più sicura, per abbreviare o la permanenza o cercare di tagliare delle fasi di cura. È logico che un paziente problematico richieda un maggior dispiego di energie da parte dei terapeuti. Abbreviare, come spesso succede, anche se i casi sono molto rari a quello che ci risulta o che ci raccontano i familiari, a noi ci sembra una cosa poco dignitosa sia per quelli che la fanno che per quelli che la subiscono. È vero che di recente una chiamata al 118 in evasa ha determinato l'arrivo della cenere e la morte del paziente? Sì, è un caso doloroso che è successo a Roma e che ha avuto origine appunto da una serie di discrepanze, e anche lì ha pesato molto anche il pregiudizio che si lega con la salute mentale, perché per una lite familiare che non c'entrava niente con il problema psichiatrico è intervenuta la polizia e l'elevarsi dello stato di ansia del paziente, della famiglia, degli stessi poliziotti ha fatto sì che venisse chiamato il 118, che è arrivato con un certo ritardo, e nel frattempo il paziente era stato ammanettato, e questo è un fatto che è stato riportato anche dalla stampa. E questo fatto ha generato una serie di problematiche fisiche sul paziente che poi l'hanno portato alla morte. E questo è un fatto doloroso che noi cerchiamo di far comprendere a chi dovrebbe gestire queste fasi di emergenza, che sono momenti molto particolari, molto delicati. Trattare un paziente psichiatrico, a prescindere dalla gravità, a prescindere dalla sua stazza pure, perché noi abbiamo pazienti con una certa fisicità, ma pazienti anche molto delicati. Trattarli come se fossero tutti delinquenti, potenziali assassini, come il pregiudizio in certe situazioni espresse. C'è stato anche il caso recente di quella signora anziana di Trigoria che è stata per cui era stato sollecitato un TSO dai vicini che si lamentavano del cattivo odore, del modo in cui la signora viveva in casa. Allora, tutto questo si basa sul pregiudizio, sul fatto della paura del diverso, sul fatto che questa persona non si comporta secondo i canoni che qualcun altro ha fissato per tutti noi. Trattarli come se non fossero persone, ma fossero solamente dei problemi. Se mancano i medici, o i medici sono oberati, perché viaggiamo sulla media dai 150 agli oltre 270 pazienti a medico, che qualità di servizio e che qualità di risposta può essere data alle necessità di cura? Con delle visite che vengono date periodicamente sempre più dilazionate e distanziate nel tempo. È logico che poi in un momento di crisi ci si trova impreparati, si viaggia sempre sull'emergenza e non si riesce a dare una continuità di cura alla persona. E la continuità di cura è anche la famosa creazione di tutta quella rete di sostegno che parte dal sanitario. Secondo lei perché Basaglia incontra tante difficoltà? Forse perché chiedeva a ognuno di prendersi le proprie responsabilità e dimostrare le proprie capacità. È più facile rinchiudere una persona che non curarla e dare conto dei risultati. Ci sono delle persone che viaggiano da una clinica all'altra per anni e anni, estraniate dal contesto sociale. È logico, una persona che sta chiusa per più di 10 anni in un ambiente, tra virgolette, protetto, quando uscirà si troverà tipo un alieno, se non c'è un qualche cosa che lo aiuta a rientrare. Quindi è più facile mantenerli lì, dimenticandoli tante volte. E il fatto che Basaglia sia tanto... Ancora si parla della legge Basaglia, anche se la legge Basaglia poi è stata inserita nel contesto della legge 833. Basaglia, se noi leggiamo quei 4 articoli fondamentali, a parte la chiusura di quelle cose allucinanti che erano i manicomi, tutto si basava sulle procedure e sulle metodologie di rispetto della persona nei momenti di emergenza, nei momenti di necessità. È come se si voglia, attraverso l'attacco a Basaglia, annullare il problema, come dicevo prima, ricondurlo a un problema di ordine sociale. La cura del paziente psichiatrico, di chi ha problemi psichici, è fatta attraverso dei rapporti umani, dei rapporti di confidenza, di fiducia che devono essere instaurati. E non è detto che magari al primo approccio io riesca a creare questo feeling con chi mi deve curare. Ci sono tempi che non possono essere standardizzati come con dei protocolli di cura, come negli ospedali che dopo 2 giorni, fatto, cucito, ricucito, ti buttano via. Qui è una serie di rapporti che si devono creare, mantenere, continuare nel tempo, vivere insieme determinate situazioni. Se io non ho il materiale umano, chiamiamolo così, è logico che poi si ricorre alla via più veloce, più semplice, meno faticosa per tutti, ma siamo sicuri che sia la via più che dà i risultati giusti? Che sia la cura che serve o la strada che serve veramente al paziente? Perché anche il fatto di mantenerlo per troppo tempo in determinate istituzioni, diciamo, sanitarie, non sempre fa bene al paziente, perché lo estranea, lo rende incapace di ricostruire poi quei rapporti che lo devono aiutare, a meno che si dichiari apertamente che si vuole ricominciare a rinchiudere e a mantenere chiusi, anche se in ambienti più imbellettati, il paziente, come le ultime proposte ci fanno pensare. Secondo lei c'è un aumento dei trattamenti sanitari obbligatori? No, che mi risulti no. Non c'è un aumento della follia. Non c'è un aumento. Se intende questo, no. Se intende invece che c'è un aumento del ricorso all'ospedalità perché i servizi territoriali non ce la fanno più, poiché il numero di personale si è grandemente ridotto con il blocco delle assunzioni, forse questo sì. Però bisognerebbe che qualcuno vada a mettere in relazione i due fatti. A occhio mi sembra che c'è attinenza, però non saprei dire un preciso. Cosa avviene una volta ricoverati? Ci può raccontare il percorso di una persona ricoverata? Quello che la domanda mi ha fatto prima. Allora, i ricoveri sono dei momenti di interruzione del normale fluire della vita di una persona, di un cittadino, diciamo così. Un cittadino che sta in crisi e che è una crisi così grave che non può essere affrontata rimanendo in casa, deve per forza di cose essere accolto in un reparto ospedaliero.